A bordo campo di Dario Ricci. Sabato 8 maggio, Stadio Olimpico di Roma, il Milan festeggia il suo 18° scudetto grazie al pareggio contro i giallorossi. Festa grande in curva, il Rino Gattuso si unisce ai tifosi milanisti che hanno seguito i rossoneri in trasferta, in quelli che ormai sono diventati i famigerati cori di Gattuso, il famigerato coro di Gattuso, l'abbiamo appena risentito, contro Leonardo. Coro che ha suscitato e sta suscitando tante polemiche, un grande dibattito tra le due sponde di Milano e non solo. Beh, allora ripercorriamo qui a bordo campo innanzitutto le voci dei protagonisti, perché immediatamente il giorno dopo è intervenuto duramente sull'argomento il presidente dell'Inter in persona, Massimo Moratti. Ci è rimasto molto male, questo è normale, perché ci rimane male in quei casi. Non do nessun giudizio, perché se una cosa si è da sola, si chiude su di sé. E niente, questo non rappresenta il Milan, penso, questa cosa, anche se il Milan immagino che qualche cosa avrà già fatto per uscire da questo imbarazzo. Rappresenta la persona e basta, quello che è successo. Sono cose che capitano per eccesso di esaltazione in certi momenti. D'altro canto, era tanto tempo che non capitava una festa del genere, quando gli è capitata c'è stato qualche eccesso. Le esagerazioni fanno parte delle felicità improvvise alcune volte. La mia posizione è in sostegno pieno a Leonardo, ma di per sé poi è una cosa talmente stonata, al di là di tutto, che si fa anche fatica a intervenire. Ci fa bene assolutamente Leonardo rispondere, perché è diretta a lui, ma di per sé è una cosa stonatissima, non viene voglia assolutamente di entrarsi o di rispondere. Quasi contemporaneamente la difesa d'ufficio da parte del Milan di Rino Gattuso. A prendere la parola è stato Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Rossonero, che ha cercato di minimizzare l'accaduto. È certamente un episodio che non va bene, ma insomma non lo drammatizzerei, insomma. Poi i giocatori, ricordiamoci sempre che sono ragazzi. Poi mercoledì 11 maggio ha parlato direttamente Leonardo che aveva immediatamente reagito a quanto accaduto attraverso un comunicato ufficiale sul sito internet dell'Inter, chiedendo spiegazioni al Milan e a Gattuso, chiedendo a Gattuso di fare luce su quelli che erano stati i dissapori che tra l'allenatore brasiliano, ex milanista storico ora sulla panchina dell'Inter, e il giocatore Ringhio, campione del mondo, c'erano stati lo scorso anno quando Leonardo allenava il Milan. E allora alle parole scritte sono seguite poi le dichiarazioni verbali di un Leonardo che cerca in qualche modo di chiudere la polemica, ma poi non troppo. Sentiamolo nel dopo partita di Inter-Roma di Coppa Italia. No, ma rimango male per essere coinvolto in delle cose che veramente io non considero, diciamo, un po' fuori luogo. Però io ho fatto un comunicato, perché non era prevista la conferenza stampa in quel giorno lì, era soltanto quello. Io non ho tanto da dire, io ho fatto soltanto due domande, diciamo, rispetto a tutto quello che è uscito. La prima era che tante verità che Gattuso ha ancora da raccontare, che le racconti, questa non ho avuto una risposta. L'altra era sicuramente capire, anche perché conosco, capire la posizione, diciamo, della società rispetto all'accaduto, e per le dichiarazioni che ho letto sinceramente credo che non merito neanche commento. Io preferisco il silenzio, si impara sempre, ognuno ha il suo modo di fare, ognuno ha il suo stile, io rispetto e ci mancherebbe altro. Sei più deluso dal Milan in questo momento o da Gattuso sinceramente? Guarda, io non voglio più parlare, non ho tanta voglia di parlare, vediamo come finirà, la mia voglia è che finisca. Tanti commenti in questi giorni su quanto accaduto. Ci ha colpito in particolare quanto scritto da Massimo Gramellini nella sua rubrica, il suo Buongiorno, sulla stampa del 10 maggio. Sentiamo. Perché uno come Rino Gattuso, campione del mondo e vice capitano del Milan, ha festeggiato lo scudetto trascinando i propri tifosi a intonare il coro «Leonardo uomo di M»? Si fosse limitato a un saltello sfottente, non avrei mai scritto questo articolo. La pernacchia al rivale sconfitto fa parte del rito. Ma nell'insulto all'allenatore dell'Inter, nemmeno un entomologo delle emozioni riuscirebbe a trovare tracce di ironia. Capisco l'antipatia di Gattuso per il suo ex capo ufficio, che quando allenava il Milan non lo prendeva in considerazione. Capisco meno la ragione per cui molti di noi, non solo Gattuso, abbiano bisogno di vomitare un'infamia per dare ali alla gioia. Cioè, lo capisco benissimo. Siamo intrisi di rancore accumulato e inespresso. Verso i politici, i superiori, i colleghi, i congiunti. Una rabbia impotente, tipica di un'epoca di transizione che non offre risposte chiare alle angosce. Serve un capro espiatorio a portata di mano, la persona da cui si ritiene di aver subito un torto. E serve un momento di felicità per liberare senza sensi di colpa la poltiglia dei brutti pensieri. Dopo lo sfogo non ci si sente migliori né appagati, solo più vuoti. Vi auguro di festeggiare i vostri trionfi, non come Gattuso, ma come Leo Messi, che quando fa gol non porta le mani alle orecchie e non tira calci alle bandierine del corner. Cerca il compagno che gli ha passato il pallone e lo ringrazia con un abbraccio, per ricordare persino a se stesso, il più forte di tutti, che il calcio, come la vita, è un gioco di squadra. Abbiamo ripercorso quindi la settimana delle polemiche per la diatriba sui cori tra Gattuso e Leonardo e altre varie personalità del mondo del calcio, polemica che sicuramente non finisce qui e che abbiamo concluso con il commento di Massimo Gramellini pubblicato sulla Stampa. Ebbene, però, di questa vicenda vogliamo ragionare con un compagno di viaggio abituale per A Bordo Campo e allora benvenuto e ben ritrovato A Bordo Campo al presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini. Buongiorno presidente. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora presidente, Centro Sportivo Italiano che è impegnato nello sport di base, l'intera vicenda Gattuso-Leonardo mi ha fatto venire in mente il concetto più ampio di esempio, no? L'esempio che questi grandi campioni, in questo caso un campione amatissimo come Ringhio Gattuso, danno a migliaia di ragazzi e appassionati che a loro si rifanno nell'avvicinarsi allo sport. Ecco, senza entrare nel merito di che tipo di esempio sia quello che ha dato Gattuso in questa vicenda, perché è abbastanza chiaro, ma è così forte questo effetto trascinamento, questa influenza che il grande campione ha poi su chi tra i giovani si avvicina poi allo sport anche a livello di base? Sì, direi che è proprio così, la questione in questi termini è inquadrata molto bene. Francamente a me piacerebbe andare oltre la vicenda Gattuso Leonardo, perché ahimè queste sono chiaramente aspetti negativi, ma anche questioni che umanamente possono capitare. Il tema di fondo è molto più importante e molto più serio ed è la responsabilità educativa dei campioni. I campioni oggi sono davvero dei grandi, o possono essere davvero dei grandi esempi positivi per i ragazzi. Nulla passa di più nell'esperienza della vita e nel cuore dei ragazzi ad alta velocità di un messaggio, di un esempio, di una testimonianza soprattutto positiva fatta da un campione. Allora questo è il tema di fondo. Troppo spesso si ha la sensazione che il mondo dello sport professionistico non abbia chiaro fino in fondo questa responsabilità educativa. Mi piace anche dire che esistono tantissimi esempi positivi molto belli, tantissimi campioni che si rendono protagonisti di straordinarie esperienze di vita, spesso troppo poco conosciute, ma che complessivamente questa responsabilità deve alzarsi di livello. È veramente una grande occasione e il mondo dello sport non può non vivere fino in fondo questa responsabilità, pretendendo che i campioni siano esempi positivi per i ragazzi e per i giovani. Responsabilità che hanno i campioni, responsabilità che ancora più forte hanno in modo più stringente i genitori, no? Mi è venuto in mente, parlando di questo episodio, un altro piccolo accadimento. Erano i giorni della Pasqua scorsa, il 26 aprile, torneo di Pasqua di calcio di Jesolo, categoria dilettanti, ragazzi in campo tra i 16 e i 17 anni. Ebbene, i genitori che accompagnano i calciatori del Fidene Calcio, un club romano dell'omonima borgata sulla Salaria, cominciano a inveire contro l'arbitro nella sfida con gli scozzesi dell'Ancraigs dopo appena 3 minuti. Calci, sputi, spintoni, calci anche ai loro ragazzi perché non interpretavano la partita così come desideravano questi genitori. Risultato: partita sospesa dopo 3 minuti. Ecco, non c'è, credo, grande distanza tra i due episodi per molti aspetti, e so che il CSI lavora a livello di base non solo per la formazione dei ragazzi, ma anche per la formazione dei genitori, no? Perché siamo arrivati a questo punto. Da sempre i genitori sono una sorta di croce edilizia di ogni società sportiva, però è vero che ultimamente stanno aumentando episodi incredibilmente negativi. Uno è quello che citavamo prima, ma ne sono capitati parecchi in questi mesi, di risse sugli spalti, di interventi dei carabinieri, di partite sospese perché i genitori venivano alle mani. Cosa è bene ricordarlo? Allucinante. Occorrono delle azioni forti, non semplici. La prima è quella di alzare il livello di cultura sportiva di questo paese, però servono anche azioni di medio periodo e di pronto intervento. Noi stiamo pensando a una scuola genitori obbligatoria nelle categorie più piccole in tutte le società sportive. Stiamo pensando, non è bellissimo, ma anche a una sorta di responsabilità oggettiva della società sportiva. Questo per aiutare la società sportiva ad avere qualche arma nel formare i genitori e nell'obbligarli a mantenere sugli spalti degli atteggiamenti almeno decorosi, che non vuol dire educativi, ma vuol dire almeno decorosi. E poi ai genitori vorrei dire veramente: lasciate divertire i vostri figli, lasciateli giocare, loro sanno come fare, e con queste tensioni riuscite solo a fare un grande danno ai vostri figli. Massimo Achini, presidente del Centro Sportivo Italiano, grazie per essere stato ancora una volta ospite di A Bordo Campo. Nel salutarla ricordo anche in modo scherzoso che il CSI è già in campo per mediare una pace tra Inter e Milan, perché sta sviluppando progetti di educazione civica allo sport con entrambi le società milanesi, quindi insomma ambasciatori di pace anche nelle diatribe pallonare milanesi. Presidente, in bocca lupo anche per questo. Grazie, buona giornata. A Bordo Campo. Ah, tu sulla attacca, tu sei qua. E sur cette dernière attaque, victoire de Elisa Di Francesca, Italie. Voci di un trionfo in pedana agli ultimi mondiali di scherma di Parigi. Elisa Di Francesca, Jesina, classe 1982, diventa campionessa del mondo di fioretto femminile. Beh, una piccola grande rivoluzione per l'Italia della scherma, perché di solito siamo abituati a trovare Valentina Vezzali su quel podio, tranne alcune eccezioni. Beh, ricordiamo le grandissime Trillini, Granbassi, ma insomma vittoria della Di Francesca su Arianna Errigo, Valentina Vezzali terza, e che da allora sta affilando la lama pronta per la rivincita. E allora, nostra ospite oggi a Bordo Campo per parlare di scherma e per parlare anche di un sogno olimpico, perché manca pochissimo a Londra, manca appena un anno a Londra 2012, Elisa Di Francesca. Benvenuta Elisa a Bordo Campo. Beh, allora, quelle medaglie ce l'hai ancora al collo, quella medaglia d'oro di Parigi, oppure sei riuscita a metterla in bacheca? Sì, assolutamente non è pesante, perché poi vabbè, le ho anche tolte dal collo, e le guardo tutte le mattine, ce le ho appese a casa e le guardo spessissimo e me ne ricordo ogni volta che vado a fare una gara, quindi mi ha dato più consapevolezza, più sicurezza in me stessa. Dicevamo Elisa, la tua vittoria sulla Errigo, terza la Vezzali, poi il successo a squadre, i mondiali di Parigi hanno un po' rappresentato anche una piccola grande rivoluzione, no, per il nostro fioretto femminile, proprio perché vi siete affacciate ai gradini più alti del podio, te, Arianna Errigo, e non la solita grandissima Vezzali. No, Valentina non è abituata a perdere, visto che ha vinto tantissime gare. Quest'anno sì, al mondiale è stato un podio giovane, però comunque si è ripresa, adesso in Coppa del Mondo sta vincendo, sta continuando a vincere. Ma io, è difficile per lei accettare, comunque lei che è una grande campionessa, accettare che magari ci sia un po' più spazio per noi giovani. Io ho 28 anni, adesso giovanissima ancora, non so, Arianna è più giovane. Tanto anche a noi piacerebbe, no, vincere qualcosa. Parigi poi è stata anche l'occasione per una piccola grande rivincita per te, no, se possiamo scherzare su questa cosa, perché da Valentina Vezzali hai preso da piccolina le prime puncicate in pedana, quindi insomma restituirgliele proprio in occasione della finale mondiale del fioretto è stata una bella occasione, no? Sì, quando ero piccola. Ma guarda, da un lato è stato bello perché comunque mi è servito molto allenarmi sia con Giovanna che con Valentina da piccola. E vedevo loro in palestra, tirar con loro, c'è sempre da imparare, quindi è importantissimo. Dall'altro però c'era poco spazio per noi, ma anche in nazionale, io lo vedo, è ricominciato anche Giovanna, quindi è sempre un dovere riconfermarsi, è sempre una gran lotta alle gare. Quindi. Giovanna, ricordiamolo, è Giovanna Trillini, l'altra grande campionessa del nostro fioretto femminile, che non è solo rivale per te, ma anche maestra e amica, vero? Assolutamente, con Giovanna c'è molto rispetto e molta stima. Ogni volta che tiriamo insieme, sia in allenamento che in gara, ridiamo e ci divertiamo, al di là del risultato poi finale, perché Giovanna è una grande campionessa e una gran signora, cioè è un tipo che magari se vede che hai dei problemi con una stoccata, che non riesce a capire per quale motivo non tocchi, si ferma l'assalto, viene lì e ti dice: vai Elisa, guarda, secondo me sbagli questo, anche a scapito suo. Quindi comunque una grande atleta, molta umiltà. Vitali è più atleta, ha più quell'egoismo che poi comunque le permette di vincere e di essere la più forte, per carità. Amicizie ma anche rivalità in una squadra tanto competitiva come quella femminile del Fioretto Azzurro. Beh, mi viene in mente la tua appunto amicizia e rivalità con Arianna Enrico, no? È proprio quel giorno a Parigi quando prima vi siete sbranate in pedana e poi la mattina dopo a fare colazione insieme al bar dell'albergo, no? Sì, ma io e Arianna poi stavamo in camera insieme, quindi alla fine abbiamo fatto il brindisi, tutto quanto, la sera a cena. Siamo tornate in camera, abbiamo festeggiato insieme comunque questa vittoria, queste due medaglie, una d'oro e una d'argento. E non è facile, nel senso, ecco, per esempio la Vezzali è una che non riesce a fare questo, perché magari sicuramente è un atteggiamento vero il suo, poi non è falso, quindi dice: no, io voglio vincere, quindi non festeggio assolutamente. E noi, da persone più intelligenti, secondo me, riconosciamo che comunque è uno sport individuale, la colpa non è dell'avversaria, ma la colpa è tua che non sei riuscita a batterla, a capire la sua scherma. Guardiamo al futuro che è Londra 2012, la tua prima Olimpiade in carriera, quindi appuntamento centrale nella storia di ogni atleta, ma che è anche Catania 2011, perché il titolo che hai conquistato a Parigi dovrai difenderlo proprio a Catania, che ospiterà la prossima edizione dei mondiali. Hai detto bene, il primo mondiale, anzi il secondo mondiale in Italia, perché il primo l'abbiamo fatto a Torino, però a Catania ha sicuramente un altro sapore, perché poi ecco, la Sicilia è mio padre è siciliano, sono metà e metà, madre jesina e padre siciliano, e la Sicilia la conosco benissimo come terra e sono molto ospitali, molto calorosi, quindi sicuramente ci sarà una bella atmosfera. Da quello che si dice, insomma, ti piace anche la bella vita, non solo le belle stoccate. Assolutamente, io mi godo la vita, nel senso che non è che esco tutte le sere, non esagero, capita che il fine settimana esco con gli amici, andiamo al ristorante, se devo bere un bicchiere di vino lo bevo, cioè io non voglio arrivare già comunque tutto il giorno in palestra, gli allenamenti, le gare fuori, già comunque è dura come cosa, se poi anche a casa mi metto a bere l'acqua a temperatura ambiente è difficile, mi esaurisco. Capitolo uomini, beh, non solo in pedana, anche con gli uomini appunto le stoccate si danno e si prendono, vero? Sì, ho avuto una vita sentimentale abbastanza burrascosa, tra varie esperienze, adesso sono fidanzata e rispetto a prima sono cresciuta, sono cambiata, rispetto a prima magari ho capito che l'amore è tutt'altro, è tutt'altra cosa, è rispetto per l'altra persona, è il voler il bene dell'altra persona, e quindi finalmente mi contorno di persone che mi vogliono bene. Sinceramente un uomo che ha paura di me è meglio che sta a casa, è meglio che si fidanza con i soprammobili, con le ragazze magari un po' più svampite e sfregnate, perché ce ne sono tante in giro. Io sono sicura di quello che voglio, sono sicura della persona che voglio vicino. E insomma, proprio un bel caratterino quello di Elisa Di Francesca. Elisa, allora, quasi tutto pronto per Londra, perché c'è ancora tanto da lavorare, ma so che ti stai già immaginando il tuo dopo Londra, no? Perché hai detto che Londra potrebbe essere anche la tappa conclusiva della tua carriera. Confermi questo proposito? Allora, sì, c'ho una mezza idea, adesso ancora non ci ho pensato, anche perché questa sarebbe la prima Olimpiade mia, quindi mi preparo, mi alleno tantissimo e voglio arrivare all'appuntamento senza rimpianti.